le spanne dell'affetto, nel cuore a sospirar, nel cuore a morto. Non può sentir nel petto le spanne dell'affetto, nel cuore a sospirar. Nel volo azzurro. Thank you.

tradimento, né via tormento, né via tormento vi colla dal voler. ti tardi più. Vedi gli allegri cori di ninfe e di pastori accolti per accrescer la pompa ai tuoi trionfi. Andromeda, tra noi non v'è chi più di me gova, il mirarti fatta sposa di Perseo e fuor d'affanni. Che i gravi miei danni quanta pietà ti avesti in il ricordo creder non ti posso bugiardo adorator di mia fortuna abbian Perseo al tempio e vi si chiudo in presenza dei nomi il vuoto il giorno quindi nasca l'augurio fortunato d'un amore tra noi sempre beato. Sposa amato, cara sposa, nel mio tormento ritorna dal goder più bello il godimento, ne rio torrento, ne rio torrento di colla dal godere. 听众朋友，以上大家所欣赏到的是维瓦尔第歌剧《安德鲁姆达·里贝尔卡》全剧的录音，由克里马斯、肯奇、贝尔罗夫、鲁奇卡尔演唱，维也纳巴洛克乐团演出，马尔康指挥。下面请您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道的精彩节目。